Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi venerdì 24 novembre. Parliamo di crisi finanziaria, parliamo di interventi possibili, potenziali di fronte alle difficoltà che si sono create, che si stanno creando nell'economia in pratica di tutti i paesi mondiali. La riforma globale e i conflitti di interessi è il titolo dell'editoriale di oggi del Sole 24 Ore, scritto da Giorgio Barba Navaretti, che abbiamo con noi. Buongiorno Barba Navaretti. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, Barba Navaretti è professore di economia politica all'Università degli Studi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, e in questo articolo delinea un po' i problemi che hanno di fronte i 20 grandi paesi mondiali di fronte alla crisi, problemi che sono ovviamente legati alle difficoltà provocate dalla crisi finanziaria che è partita dagli Stati Uniti, ma che si è rapidamente estesa proprio perché siamo in un clima di globalità anche al resto del mondo. Allora, uno dei punti centrali di questo articolo è il fatto che mentre l'economia si è globalizzata, la politica è ancora rimasta sui tradizionali binari. È questo il punto, Barba Navaretti? Ma sì, direi che se noi guardiamo quello che è successo negli ultimi anni, l'economia internazionale ha continuato ad integrarsi, il commercio internazionale è cresciuto moltissimo, la finanza ovviamente internazionale ha aumentato e continuato a crescere, gli investimenti diretti fatti dalle imprese sono aumentati, non solo, le imprese hanno modificato completamente in molti casi la loro organizzazione produttiva, frammentandola su più paesi, quindi diciamo il mondo è da un punto di vista economico diventato realmente più globale. Da un punto di vista invece della politica economica è stato sempre più difficile riuscire a fare degli accordi globali che in qualche modo riuscissero a governare questo sistema economico sempre più integrato. Pensiamo per esempio alla difficoltà di chiudere il round di Doha che dovrebbe definire le nuove regole di liberalizzazione del commercio internazionale. Il round di Doha si svolge nell'ambito della World Trade Organization e in questo round è anni che va avanti. L'ultimo round che è stato chiuso nel 1994, il famoso Uruguay Round, che ha definito le regole che ancora oggi ci governano. Dovremmo oggi fare un passo avanti, ma non si riesce a fare perché i paesi non si mettono d'accordo. Quindi diciamo che c'è stato uno stallo politico da un lato e un avanzamento invece dell'economia, secondo me. Ecco, ricordo agli ascoltatori l'824-0024 per le vostre telefonate. Barba Navaretti, si parla di una nuova Bretton Woods, cioè di tornare, come è stato fatto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a ridare un ordine internazionale, a ridare un ordine partendo magari dalle valute, come era stato fatto a Bretton Woods, per tornare appunto a equilibri diversi, perché quelli attuali non possono che essere diversi dal passato, ma comunque regolati. È possibile pensare a una nuova Bretton Woods, Barba Navaretti? Ma non so se ci sarà una nuova Bretton Woods. Io spero che la crisi sia perlomeno una buona opportunità per i paesi di trovare delle linee comuni di gestione dell'economia. E questo forse è possibile perché ovviamente la crisi aumenta le aree in cui è assolutamente necessario cooperare e trovare il modo di cooperare tra paesi. Quindi diciamo la speranza è che in qualche modo la crisi rafforzi l'incentivo dei diversi paesi a cooperare e soprattutto faccia mettere da parte quelli che sono dei particolarismi nazionali o regionali che hanno finora impedito di trovare degli accordi. Quindi in questo senso speriamo che questo possa essere il passo in avanti. Ovviamente l'agenda del vertice del G20 che si terrà in questi giorni negli Stati Uniti è un'agenda complessa perché è un'agenda che da un lato deve gestire l'emergenza che come sappiamo è un'emergenza finanziaria, i mercati finanziari non sono certamente ancora del tutto stabilizzati e dall'altra poi naturalmente c'è da gestire anche il problema della recessione dell'economia reale e d'altra parte però c'è anche da definire un nuovo sistema di regole che funzioni per il lungo periodo. Ancora stamattina sul Financial Times il nostro governatore Mario Draghi appunto ci ricorda come è necessario riformare il sistema di regole globali e lui stesso ha fatto varie proposte e quindi insomma diciamo che c'è un quadro di riforme necessarie che il mondo si deve dare per gestire l'economia. Ecco, Giorgio Barba Navaretti, ricordo, è professore di economia politica all'Università degli Studi di Milano. In questo articolo si parla anche della Cina. Ora, uno dei fattori di novità di questo vertice è che parteciperanno anche i paesi cosiddetti in via di sviluppo, anche se molti paesi sono già sviluppati. Ora, vuol dire che questi paesi, la Cina, come altri paesi come il Messico, il Brasile, la Russia stessa, sono ormai da considerare come appartenenti a un'economia di mercato. Finanziariamente lo sono già, perché la Cina, lo ricordi per esempio nel tuo articolo, ha finanziato e finanzia anche il deficit americano, essendo uno dei maggiori acquirenti dei titoli, essendo stata uno dei maggiori acquirenti dei titoli di Stato americani. Allora si può comunque già parlare di un ambito in cui il linguaggio è comune anche con questi paesi? Giorgio Barba Navaretti. Io credo che il linguaggio deve diventare sempre più comune, nel senso che è chiaro che questi paesi hanno oggi un ruolo nell'economia mondiale che fino a 10 anni fa non avevano, un ruolo che sia nell'economia reale, perché la Cina non solo finanzia il deficit degli Stati Uniti, ma come sappiamo la Cina è un grandissimo esportatore di manufatti e di materie e di beni, appunto di beni manufatti, di scomponenti, semilavorati, anche beni finiti, cioè le economie emergenti sono integrate alle economie avanzate anche dal punto di vista produttivo, non soltanto dal punto di vista finanziario. Quindi senz'altro il nuovo, diciamo, ordine mondiale dovrà tenere conto dei paesi emergenti, il che non è affatto facile, perché ovviamente gli obiettivi e dei paesi emergenti non sempre sono allineati con quelli dei paesi industrializzati, quindi non è facile comporre questo quadro che oggi è un quadro multipolare con vari paesi che contano molto sullo scenario internazionale, ma il quadro va composto per forza in questo ambito, ecco. E comunque c'è da tenere presente che nella realtà internazionale un paese come gli Stati Uniti, che hanno sempre fatto da guida, da centro e anche da forza di gravità per affrontare questi problemi, adesso devono comunque fare i conti con gli altri paesi, devono comunque cercare anche una collaborazione internazionale costruttiva, perché anche la stessa finanza americana, ridotta com'è, dipende molto dalle sorti dell'ordine economico e finanziario internazionale. Abbiamo una telefonata, Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno direttore. Dunque, come avete sottolineato voi poco fa, intanto un saluto a tutti quanti gli ascoltatori e partecipanti. Grazie. Da circa 10 anni era prevedibile che una, diciamo, globalizzazione dei mercati avrebbe provocato una situazione selvaggia per quello che riguarda poi le regole. L'abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo noi in Italia con quello che sta succedendo nei poli tessili di Prato, la zona di Carpi. Siamo praticamente stati invasi dalla globalizzazione da un giorno all'altro. Forse sarebbe stato più intelligente, più razionale fare prima delle regole e poi permettere questa apertura delle frontiere alla globalizzazione, per esempio dei dazi, delle situazioni molto semplici che però già imponevano, no, un calmiere a certi comportamenti e via discorrendo. Io adesso penso, come diceva lei, che i buoi sono scappati, adesso andarli a riprendere uno per uno e riportarli dentro sarà una cosa difficilissima, tenendo presente che poi ogni singolo paese sta vivendo una crisi personale, cioè l'Italia di un certo tipo, l'enorme inflazione, le crisi, la Germania, ecco, oggi ufficialmente entrata in recessione, quindi non lo so, mi sembra un'impresa veramente abbastanza difficile, molto difficile. Sì, certamente l'impresa è difficile, la ringrazio di queste osservazioni, ma proprio perché è difficile, non dico va affrontata, ma proprio perché le circostanze hanno creato queste difficoltà, è ormai una situazione che va presa un po' per le corna, anche se i tori, come dicevo, o le mucche, come si dice, sono uscite dalla stalla. E tornare indietro è certamente complesso, però forse possiamo chiederci, e lo faccio a Giorgio Barba Navaretti, se in questo momento la globalizzazione, più che il problema, non possa essere la soluzione. Guarda, io credo che la globalizzazione effettivamente è stata anche in parte una grande conquista di questi ultimi anni. Non dobbiamo dimenticare che la grande crescita economica che abbiamo vissuto, sia noi che i paesi emergenti, che gli Stati Uniti, è stata in parte frutto della globalizzazione. Non dobbiamo dimenticarci anche che effettivamente se da un lato ci sono i costi delle imprese che devono chiudere di fronte alla concorrenza cinese, ci sono però anche i vantaggi di consumatori che possono comprare beni a prezzi molto più bassi di un tempo. Quindi diciamo che la globalizzazione sicuramente è servita a rafforzare la crescita economica di questa fase, ha permesso alle imprese di organizzare meglio la loro attività produttiva e diventare più efficienti e ha permesso in qualche modo degli scambi che sicuramente sono, anche se hanno avuto a volte dei costi sociali, sono sicuramente stati vantaggiosi. Penso che la crisi finanziaria non deve diventare l'opportunità per buttare via, diciamo come si dice, il bambino con l'acqua sporca, nel senso che certamente c'è stato un problema di mancanza di regole in certe aree, soprattutto nell'area dei mercati finanziari, certamente ci sono stati degli squilibri che forse si potevano controllare, certamente ad esempio il nostro sistema di welfare non era assolutamente adeguato a fare fronte ai costi sociali che naturalmente ci sono anche nei processi di mercato come la globalizzazione, ma credo che abbiamo bisogno di una riflessione molto pacata su quali siano le nuove regole e sicuramente la conclusione non è quella di chiudere i mercati, ecco, credo che una chiusura dei mercati e un ritorno a barriere protezionistiche, al territorio nazionale non sia un'opzione francamente percorribile se non a costi elevatissimi. Comunque, quello che diceva l'ascoltatore, la crisi poteva essere prevista, avrebbe dovuto essere prevista. Secondo me bisogna distinguere tra la crisi finanziaria e la crisi reale, nel senso che chiaramente se guardiamo a quello che è successo nei mercati finanziari, soprattutto negli Stati Uniti negli ultimi anni, è evidente che c'erano dei problemi seri, dei problemi che derivavano da un lato dal fatto che il denaro costasse pochissimo e che quindi ci fosse una politica monetaria, soprattutto negli Stati Uniti, molto liberale con denaro a costo basso che ha permesso qualunque tipo di investimento e in secondo luogo che si fosse deregolamentata una parte del sistema finanziario che per me ha potuto crescere in modo piuttosto incontrollato prendendo anche dei rischi molto seri. Devo dire, a me la cosa che colpisce di più la crisi, oltre, voglio dire, al fallimento delle regole, nel senso che non abbiamo avuto abbastanza regole per poterla governare, è anche un po' il fallimento del business, il fallimento non solo del mercato, ma proprio del business. È abbastanza sorprendente che istituzioni finanziarie come quelle che abbiamo viste fallire non abbiano gestito i loro rischi di investimento in modo adeguato, in modo da evitare la bancarotta. E devo dire che questo è sicuramente stato un problema, ecco. Certamente, cioè, è mancata certamente una professionalità anche da parte dei banchieri, oltre che da parte dei politici nel guardare un po' in avanti. Buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia, stiamo parlando della crisi finanziaria internazionale, del prossimo vertice, oggi e domani a Washington del G20, lo stiamo facendo con Giorgio Barba Navaretti, professore di economia politica all'Università degli Studi di Milano, ma lascio la linea a Lorenzo da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo fare una domanda. Stamattina sulla New York Times c'è un editoriale di Paul Krugman, l'editorialista e anche premio Nobel per l'economia, che dice delle cose interessanti. Dice che nella gestione di questa crisi la prudenza è una follia e la cautela è una pazzia. Dice cioè che bisogna che ci siano delle azioni molto audaci, io credo nella direzione di una spesa pubblica e quindi di un stimolo alla domanda molto forte che lui stima per l'America in 600 miliardi di dollari, quindi aggiuntivi già al pacchetto di salvataggio delle banche che è stato approvato agli inizi di ottobre, e volevo sapere il parere del professore su questa linea per risolvere la crisi finanziaria che però si sta trasformando in una crisi economica. Grazie, giro subito la domanda a Giorgio Barba Navaretti, di fronte allora a una situazione eccezionale, misure eccezionali. Beh, mi sembra senza dubbio, mi sembra che comunque tutti i paesi si stiano preparando a vararle e mi sembra che uno dei risultati probabilmente che usciranno dal G20 sarà un accordo globale su un intervento di tipo fiscale. Naturalmente la crisi finanziaria, come diceva giustamente Lorenzo da Roma, si sta traducendo in una crisi dell'economia reale, abbiamo ricordato prima il fatto che la Germania è appena entrata in recessione e quindi la politica monetaria non sembra essere più in grado di riuscire a sostenere l'economia, anche perché coi problemi che ci sono nel mercato del credito è molto difficile gestire una politica monetaria efficace che riesca in qualche modo ad incidere sulla spesa, sulla domanda dei consumatori, sugli investimenti e quindi sull'economia reale. Quindi diciamo un intervento di tipo fiscale è necessario e, come dice anche giustamente Krugman, non può essere un intervento prudente e fatto con cautela perché abbiamo bisogno di interventi molto grossi. La Cina ha già varato un piano di oltre 500 miliardi di dollari nei giorni scorsi e questo è un intervento molto significativo e soprattutto è un intervento incoraggiante perché ci dice che anche i principali paesi emergenti sono su questa linea di pensiero, quindi credo che questo è un tema su cui si riuscirà a trovare un coordinamento tra paesi emergenti e paesi avanzati. E che ci ovviamente sia... quando si parla di un intervento di carattere fiscale lo si dice all'americana, non di carattere di stretta fiscale, perché quando in Italia si parla di intervento fiscale si pensa a un aumento delle tasse, non si sta ovviamente parlando di questo, ma di un intervento sulla spesa pubblica, sull'intervento pubblico nell'economia, no? Certo, esattamente, credo che proprio non è il momento per aumentare le tasse questo, anche per paesi che le hanno piuttosto basse, no, si parla di un intervento pubblico di spesa ovviamente, per esempio quello cinese è su infrastrutture e welfare e anche ovviamente gli interventi che ci saranno in America e anche in Europa saranno in questa linea. Ovviamente non è semplice perché poi ci sono dei vincoli di bilancio che i governi devono rispettare, quindi non è che non è che il portafoglio dei governi sia infinito come ben sappiamo. Il problema è particolarmente grave poi per paesi come il nostro che hanno un debito molto elevato e che in qualche modo devono cercare di contenerlo, quindi aumentare la spesa pubblica da un lato e dall'altra riuscire a contenere il debito è un'equazione che non è semplice da ottenere. Però sarebbe forse il momento di ridurre le spese, di tagliare in maniera strutturale una spesa pubblica che ha molti sprechi. Esattamente, credo che questa potrebbe essere una ricetta possibile, credo che uno dei problemi della crescita italiana è proprio la qualità della spesa pubblica più che la quantità della spesa pubblica, quindi forse anche questo sarà un passo da perseguire, ecco, senz'altro. Stefano da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, scusi, io volevo solo intervenire sull'intervento appunto del professor Novaretti, quando dice che la globalizzazione ha portato dei vantaggi all'utente che compra la merce a minor costo. Purtroppo il problema non è proprio così, perché un gatto si morde la coda, perché siccome le industrie vanno a costruire all'estero, la gente qua sta perdendo il lavoro, non può comprare. Il problema è anche questo sulla globalizzazione, che è un fenomeno che indubbiamente non si può e non si deve fermare, però non è che si possa semplificare secondo me dicendo che l'utente compra meno, perché l'utente in questo momento non ha neanche i soldi per comprare una cosa che costa poco, perché ad esempio La domanda è molto precisa, mi sembra. Siamo in un momento di globalizzazione, ovviamente ci sono delle opportunità da cogliere e dei rischi che di cui si deve tenere presente. Per l'Italia, che è un paese in gran parte esportatore, la cui economia è basata sulle esportazioni, la possibilità di esportare e di accedere a mercati che stanno crescendo come quelli cinesi è indubbiamente un fattore che può essere molto positivo. Ma sento Giorgio Barbadavaretti. No, hai ragione, cioè nel senso che evidentemente è chiaro che ci sono molte imprese che stanno chiudendo in seguito alla concorrenza internazionale, soprattutto dei paesi emergenti, e c'è un problema serio di persone che stanno perdendo il posto di lavoro e questo diventerà ancora più serio in una fase di recessione. Però non dobbiamo dimenticare, al di là di quello che ricordavo prima sul prezzo dei beni importati, appunto, come dicevi tu, che gran parte della crescita italiana, delle imprese italiane è stata permessa da un aumento delle esportazioni del nostro paese, cioè il nostro settore manifatturiero è un settore che è ancora competitivo sui mercati internazionali, che riesce a essere presenti anche nei paesi emergenti, quindi diciamo l'integrazione dei mercati ha anche dato straordinarie opportunità di crescita per le nostre imprese. Questo naturalmente ha un po' cambiato il quadro, nel senso che imprese più deboli e meno capaci di competere sul mercato internazionale purtroppo hanno dovuto chiudere, però altre sono riuscite a crescere e a espandere le proprie attività. Ecco, per cui certamente è un quadro che va visto da più punti di vista, ma credo che tutto il quadro sia senz'altro positivo. Comunque ritornare al mercato nazionale, proteggere le nostre frontiere, non aiuterebbe senz'altro i lavoratori che in questo momento purtroppo stanno perdendo il loro lavoro. Grazie, io ringrazio Giorgio Barba Navaretti, ricordo professore di economia politica all'Università degli Studi di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Ovviamente abbiamo parlato di problemi molto complessi, una realtà internazionale che è estremamente complessa, e per risolvere questi problemi complessi non ci sono certamente soluzioni rapide, soluzioni immediate. Bisogna cogliere le opportunità, anche le opportunità di una crisi pesante come l'attuale. Ringrazio quanti ci hanno seguito, ringrazio la regia, l'appuntamento è per lunedì.